Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Irene rideva leggera come una rondine alle storielle divertenti che tiravo fuori per lei. E quel giorno mi ricordai perché avevo voluto sposarla fin da ragazzino. Mi chiamo Enrico, ho 4 figlie, amo i viaggi a piedi e mi piacciono le storie. Sono le 16:08 minuti di un venerdì qualunque, 7 di dicembre 2012. Se non l'avete già saputo, da queste parti nevica. Se non l'avete sentito prima alla radio, l'avete sicuramente visto se frequentato i social network, visto che la notizia del giorno è che nevica. A breve sicuramente anche le foto pubblicate su tutti i social network d'Italia, con tanto di spessore su biciclette, balconi, strade e automobili. 349-238-6666. Oggi si parla, forse proprio perché oggi si parla di quella roba lì, no? Tantissimo, del meteo, del freddo, della cattiva stagione. Oggi vogliamo parlare di quella che l'autore di questa storia ha definito lui stesso la bella età, l'età bella della nostra vita, che può essere considerata l'età più giovane, ma anche no, se la vostra età bella è arrivata a 70 anni, va benissimo lì. L'autore della puntata di oggi, tra l'altro, e della storia di oggi, è un autore piuttosto particolare, perché, come saprete, se siete affezionati di questo programma, da questa stagione abbiamo iniziato a ospitare ogni tanto, qua e là, sparsi all'interno delle puntate dedicate a tutti gli ascoltatori o a tutti quelli che hanno voglia di mandare la loro storia qui a Voi Siete Qui, abbiamo il piacere di fare intervenire, di fare raccontare una piccola storia a delle persone che sono, per qualche motivo, note, perché, che so io, perché fanno, sono degli attraversatori dell'oceano a remi, come è successo con Alex Bellini, perché sono note perché sono degli autori comici, come Lela Costa, come è già successo. E poi è capitato anche, e capiterà e capita soprattutto oggi, di avere delle persone che di mestiere fanno questo, cioè fanno gli scrittori. È il caso di Enrico Brizzi. Enrico Brizzi è uno scrittore che è molto molto noto, soprattutto credo alle persone della mia generazione, per un semplice fatto, perché tutti quanti noi l'abbiamo invidiato tantissimo quando alla sua età, noi alla nostra età, Tiziano forse ha qualche anno di meno, però vabbè, più o meno siamo lì, no? Avevamo 16, 17, 18 anni, uscì con un libro che letteralmente spaccò in due il mercato editoriale, che era Jack Frusciante uscito dal gruppo. Era sulla bocca di tutti il libro ed era sulla bocca di tutti Enrico Brizzi. Enrico Brizzi fortunatamente non ha finito lì, ha continuato a scrivere ed è arrivato fino a qui. Enrico ci ha regalato un piccolo pezzo di una storia che è diventata la puntata di oggi e che racconta un episodio legato a quell'età, a quella bella età in cui ogni tanto ci rifugiamo, soprattutto nelle giornate peggiori, per ricordare un tempo in cui siamo stati un po' più felici magari di adesso e sperando di poter tornare ad esserlo. 349-238-6666. Claudio scrive: la devo ancora vivere io la mia bella età. Barbara: la mia bella età è stata quando finalmente mi sono liberata da quella che gli altri si aspettavano che io fossi, per riprendermi la mia vita e viverla al meglio delle mie possibilità. Liliana: dai 20 anni ai 30 anni è stata la mia bella età, quando ho preso coscienza di me e ho capito le priorità della vita. E poi, mamma mia, come mi sentivo libera. La bella età può essere davvero legata a un ricordo o a un periodo o a una persona, perché no? La bella età di Enrico è legata a questa piccola storia qui. Non parlammo mai di guerra nel corso di quella giornata che avrei voluto non finisse più, riscaldata dal fuoco dell'amicizia e dalla bellezza orgogliosa di Irene. Aveva 21 anni, un figlio in età d'asilo e nessun uomo a fianco, a quanto pareva. Se il padre del bambino non aveva importanza per lei, in che senso dovevo preoccuparmene io? Mangiammo i nostri tramezzini sotto gli ombrelloni. Le sue spalle erano identiche a quelle dell'adolescente che poche stagioni prima mi aveva fatto pensare alla dea cacciatrice, sorella di Apollo. Dopo il diploma, Irene aveva trovato lavoro come dattilografa negli uffici di una compagnia di navigazione. «E tu? Hai già deciso cosa farai da grande?» mi domandò a un certo punto, trattenendo all'ultimo un gesto d'affetto per non mettere in imbarazzo il fratello. «Ultimamente, per raggranellare qualche soldo, mi sono occupato di saracinesche», rimembrai. «Ma è un ramo che penso di abbandonare». Levavo la ruggine e le tiravo a lucido, il tutto in piedi su una scala traballante. «Così adesso vorrei un lavoro più stabile, in tutti i sensi». Irene mi sorrise, o forse sorrise al proprio riflesso raddoppiato dai miei persol. In ogni caso, era bellissima. Tipicamente le paure più grandi di un uomo innamorato, soprattutto all'inizio di un rapporto, sono le presenze più o meno reali di altri uomini vicino alla sua bella, uomini che risorgono dal passato, uomini che sbucano da chissà dove. Qualcuno è veramente geloso, anche se la gelosia non è più di moda. Mi accomodai sulla stuoia a pancia sotto, fra Irene e Riccardo. La trama di gocce salate sulle braccia di lei, testimonianza del bagno di poco prima, era di una perfezione difficile da immaginarsi. Sperai tanto che mi guardasse. Invece teneva gli occhi chiusi. «A me piace molto recitare», riprese la voce della sorella minore. Si era messa seduta a fianco della sorella e lo sguardo, perso fra le onde, incombeva su di noi come una minaccia. «Sono stata Ofelia quest'anno. Brava!» la lodai. Non ero neppure sicuro che il suo personaggio fosse una donna, ma mi sentii autorizzato a considerare con fare esperto che Ofelia è sempre Ofelia, no? «Già», sospirò lei, abbracciandosi a fatica le ginocchia. Aveva il corpo che aveva, ma era d'animo sensibile. «Spesso ai ragazzi non piace il fatto che io reciti», aggiunse. «Li lascia inquieti. E anche il fatto che mi piace leggere. Io invece adoro i romanzi dell'Ottocento russo. E a te piacciono?» All'inizio finsi di non avere sentito, la sua voce poteva bene essersi perduta nell'eco della risacca. «Prego», le dissi. «No», dicevo, «ti piacciono i romanzi russi del secolo scorso?» «Come no?» risposi con entusiasmo puntellandomi al gomito per non darle integralmente le terga. «Però a dirla tutta preferisco i francesi, li trovo più romantici». Lei, il pachiderma di mare, mi fissò ammirato. Per farlo doveva accorgersi del corpo della dea disteso fra di noi. La sua presenza fisica, nella muta perfezione delle forme abbandonate, stava insieme a proteggermi e ad ammonire il mostro. «E moderni? Ne leggi? Guarda, vado matto per Salgari», risposi a colpo sicuro. «Salgari. E Pavese? Lo leggi», mi disse. «A me piace Pavese», saltò su Irene. «Scrive libri nutrienti». Pavese, soprattutto se letto a 20 anni, ha di nutriente il fatto di impiegare tutta la tastiera, tutta la tavolozza del lessico italiano. Penso soprattutto a grandi descrizioni. E poi, agli occhi dei giovani, vive nel mito, come una rockstar. «Scrive libri nutrienti», disse proprio così. «Una notte l'ho anche sognato», proseguì Irene. «Scriveva tutto il giorno, poverino, e io cucinavo per lui». La sentii dire così e avvampai di gelosia. Che si presentasse l'imbrattacarte che le aveva fatto girare la testa. L'avrei sistemato io. «Ma l'avete visto il Don Chisciotte di Blasetti?» domandò allora Irene. «Con quel Gasman, bravissimo, e Aldo Fabrizi a fare Sancho Panza». Lei, che era più bella delle attrici applaudite in tutta Italia, parlò senza inutili imbarazzi dei suoi film preferiti e della sua passione per il Boogie. Rideva leggera come una rondine alle storielle divertenti che tiravo fuori per lei. E quel giorno mi ricordai perché avevo voluto sposarla fin da ragazzino. They shot me down in Smolensk, where I lost my eyes, you see. It was a Wehrmacht soldier who put this mark on me. I was enrolled in Tula, summer of 43. My father was a cooler, and I had the speed on him, so I got to sing my story. Un episodio piccolo che riaffiora alla mente. La memoria di ognuno di noi si comporta in maniera strana e a volte senza motivo tira fuori piccoli episodi, magari simili a quelli raccontati da Enrico, di cui all'improvviso ricordiamo ogni minimo dettaglio. Ricordiamo il colore del sole o della terra sotto i nostri piedi. E se quel ricordo è buono, ci fa tornare ad un periodo in cui eravamo più leggeri, più felici, in cui le cose scorrevano facili, senza dolori di pancia o cervicali. Quando tutto sembrava aperto di fronte a noi, mentre ora è chiuso dalle prospettive ridotte o dagli spigoli della realtà. Quella età bella ci appartiene come ci appartengono indumenti che abbiamo amato e non possiamo più indossare, perché rattrappiti, stracciati o semplicemente troppo piccoli per noi. Ho un ricordo simile alla storia di Enrico, in cui sono al mare in estate e i miei genitori sono alla loro solita spiaggia, mentre io, per la prima volta, ho deciso di andare ad un'altra con un gruppo di amici che ho conosciuto da poco. Loro, i miei genitori, mi hanno dato il permesso di farlo e già questo mi fa sentire grande e fiero. Su quella spiaggia conosco una ragazza che mi sembra una dea nel mio ricordo, perché le mie età belle hanno sempre a che fare con l'estate e con il desiderio. Mancava una settimana alla partenza e da quella volta ci tornai ogni giorno su quella spiaggia, sperando che lei mi guardasse e che addirittura mi sorridesse. E non importa che io mi sentissi magrolino, con il naso troppo grosso per la mia faccia e i capelli corti che i miei mi facevano sempre tagliare in estate. Quell'età era bella nonostante tutto, perché intorno a me il mondo girava come se non ci fosse null'altro che potesse interromperne la corsa. Le età belle della vita sono piene di sole e di odori. Noi siamo più belli e più forti del solito, roba che a ripensarci ci facciamo invidia. Le belle età della vita sono probabilmente la misura della nostra felicità. Sono la spia accesa che ci ricorda che noi, felici così, lo siamo stati. E che se non lo siamo più, forse conviene cambiare qualcosa. Provate adesso, in questo momento. Provate a ricordare un'età bella della vostra vita. Dove eravate? Con chi? Cosa facevate? E voi? Chi eravate? Voglio pensare che stare su una spiaggia con la ragazza di cui si è innamorati, scambiando qualche chiacchiera con lei su Pavese o chissà cos'altro, possa essere una misura. La misura di un'età che vogliamo far tornare e soprattutto che vogliamo tornare a vivere. Isn't it rich? 349-238-6666. Si parla oggi di quella parte della vita che è un po' la primavera della vita, o come mi diceva prima fuori onda Enrico Brizzi, la stagione buona della vita. Pronto Enrico? Ehi, pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, io bene, tu come stai? Ottimamente, grazie. Grazie innanzitutto per essere qui con noi. Insomma, ricordiamo una delle puntate speciali di Voi Siete Qui da questa stagione, ogni tanto di avere un ospite particolare che racconta a modo suo un pezzo della sua vita. Enrico, in questo caso tu, diciamo, volendo immaginare, racconti in bocca a qualcun altro un pezzo della tua vita o un pezzo della vita di ognuno di noi, no? Quando ha 20 anni, l'età di Lorenzo, in questo caso la vita sembra lì che ti aspetta a braccia aperte, no? Sì, c'è una stagione della vita in cui si aprono un sacco di prospettive sui sentimenti, sull'amore, sulle relazioni con gli altri, o nel caso di Lorenzo Pellegrini soprattutto con le altre. Lui è sbigottito dal fatto che è arrivata a un'età in cui può pensare a sé come a un giovanotto swing, a qualcuno in grado di sedurre qualcun altro. E quindi la stessa ragazza che gli era apparsa bella e irraggiungibile come una dea al mare poche estati prima, all'improvviso diventa la possibile fidanzata. È una meraviglia. Cos'è invece che spinge un ragazzino di 18-20 anni? Quanti anni ha in questo periodo? Cioè in questo periodo, in questo momento del libro, della storia, Lorenzo? 18? Sì, siamo all'inizio della storia, a 18 anni, il grosso della storia si concentra nella sua annata fra i 19 e i 20 anni, qui siamo all'inizio, ha da pochi giorni una Vespa color amaranto da 98 cc e decide coerentemente di impiegarla non già come voleva l'amico, suo amico Ardus, per fare una carovana moto Vespa lungo la Via della Seta, ma più modestamente per giungere a Trieste, dove vive la sua bella Irene Maier. Ecco, quindi, scusa, tornando all'età e più che all'amore, ai sentimenti, all'aspetto di ambizioni di Lorenzo, che cosa spinge un ragazzo di 18 anni a voler fare il giornalista? È vero che qui parliamo del 1950, giusto? Della metà del secolo scorso. C'è secondo te qualcosa di comune in tutte le epoche che spinge un ragazzo giovane a scegliere di fare un mestiere in cui si informano le persone? Te lo chiedo da una radio che, diciamo, lo fa di mestiere, no? Quello, la vocazione è quella, è informare le persone su quello che accade nel proprio paese e nel mondo. Cosa spinge un ragazzino di quell'età a volerlo fare? Secondo me ci sono due aspetti da tenere presente. Uno è che i giovani sono molto inesperti tipicamente, però hanno molto sviluppato il senso della giustizia, per cui ci sono tanti ragazzi che con lo stesso spirito, per esempio, vogliono fare i magistrati, magari non hanno presente le storture della legge italiana viste dall'interno, però sono ispirati dal bene, dall'idea di combattere qualche cosa di oscuro. Allo stesso modo chi decide di informare di solito lo fa perché ama l'idea di raccontare la verità, poi magari non conosce che genere di compromessi servono per poterlo fare, ma credo che sia sostanzialmente un istinto sano. Tu che cosa facevi, Enrico, a 18-20 anni? In realtà rompevo noi le scatole agli editori. In realtà, esatto, forse noi sappiamo che cosa facevi tu a 18-20 anni, perché tu hai avuto, diciamo, quella forma di successo che bacia i giovani e che quasi è merito del fatto di essere giovane, no? Al di là del fatto che Jack Frusciante uscito dal gruppo fosse un bellissimo libro, questa cosa del giovane, all'improvviso è arrivato un giovane che sa scrivere. Come ti ha colpito il successo a quell'età? Beh, mi ha letteralmente sconvolto, cioè per anni alla stessa domanda avrei risposto io sono sempre quello di prima, in un certo senso è vero anche quello, però è inutile nascondere che è ricevere le telefonate delle ragazze che prima non volevano concederti appuntamento quando sono loro che vogliono uscire con te, oppure molto semplicemente poter conoscere i personaggi che prendono vita dai poster appesi in camera tua, cioè portare Vasco nel tuo pub. Cioè, queste sono le esperienze che per quanto mi riguarda ti cambiano la vita, perché ti permettono di misurarti con la realtà anziché coi poster. Senti, permettono di dare una voce e umanità alle persone e quindi di misurarti col reale. Enrico, e poi ti devo salutare, visto che parlavamo della stagione buona di Lorenzo Pellegrini, che è protagonista di Lorenzo Pellegrini e le donne, qual è stata o qual è o quale sarà la stagione buona di Enrico Brizzi? Ma dura da 20 anni, dai, finalmente. Enrico, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata e ricordiamo che è in libreria Lorenzo Pellegrini e le donne di Enrico Brizzi, l'ultimo suo libro. Grazie ancora. Ciao Matteo. Ciao Enrico, ciao, grazie. 349-238-6666, scrive Roberto anche al volo, dice: i 10 anni in cui giocai a volley sono stati la mia stagione più bella. Panchinaro di ruolo, ma che gioia far parte del gruppo. E poi la partita che giocai alla grande con gli applausi del coach. Sembra un disegno di Paz, Enrico Brizzi, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, dove trovate anche tutto quello che cercate su questo programma. Trovate i podcast, trovate la mappa per sapere a che punto siamo della mappatura di storie in questo momento, in questo paese, dove siamo e chi siamo e voi siete qui. Enrico sta fumando una sigaretta sotto i portici, sotto dei portici, che se uno è stato una volta a Bologna e se sa che lui è bolognese, non può altro che essere chiaramente un porticato di Bologna, di quella città lì. Enrico ha i capelli, cioè, perché ha il naso, diciamo, ha un naso importante, un po' come il mio. Quando dico che ho un naso grosso, la gente che mi vuole bene mi dice: no, è un naso importante. E ecco, Enrico è un po' come me, gli vogliamo bene, quindi ha un naso importante. Però ha nel ciuffo dei capelli, nel naso e nella sigaretta che gli spunta dalla bocca qualcosa di aguzzo. Non so cosa, ma c'è qualcosa di aguzzo. Età. Sostantivo femminile. Ciascuno dei periodi in cui convenzionalmente si suddivide la vita umana. Gli anni di una persona in rapporto alle funzioni fisiche e psichiche o agli aspetti sociali della vita. Generico. Tempo. Epoca. Era. Etimo. Dal latino etatem, derivato di evum, tempo. Data, secolo XIII. L'avete già registrato? Sì, abbiamo già fatto, Diego, grazie mille. 349-238-6666. Gianluigi mi scrive che l'età bella della vita è stata intorno ai 15 anni, quando con gli amici si andava al fiume e tra un tuffo e l'altro si parlava male delle ragazze, anche se va da sé che ognuno di noi ne aveva una nel cuore. A proposito di fiume e di amici, visto che Enrico Brizzi ha parlato di Cesare Pavese, di quanto siano nutrienti i testi di Cesare Pavese, finalmente ho l'occasione per leggervene, finalmente, per l'ennesima volta, ho l'occasione per leggervene un piccolo passo tra poco. Paola, l'età bella della vita è questa. perché sto capendo che per male che vadano le cose, finché puoi sperare, finché hai qualcuno da amare, qualcuno che ti ami, amici compresi, nessuno e niente ti può togliere la voglia di vivere. Diciamo che ho circa 40 anni. Paola, benvenuta, perché questa è proprio quell'età lì. I circa 40 anni è l'età in cui ogni tanto ti sembra di... che si riparte, che non è tutto passato, che c'è ancora tutta una vita davanti. Ed è vero, ed è vero. Però, insomma, è un po' una caratteristica di questa età qui. O forse di questa età della nostra generazione. I miei a 40 anni avevano già due figli, una casa, due auto, il mutuo. E non so, dovrei chiedergli adesso come erano a 40 anni. Però me li ricordo. C'è stato un periodo nella mia vita in cui, quando pensavo ai miei, pensavo che avessero sempre 40 anni. Anche quando avevano 50. Quanti anni tuoi? Boh, 40, credo. Nella mia testa mia mamma e mio papà hanno sempre un po' 40 anni. C'è un messaggio di Patrick che sembra stridere, cioè sembra essere un ossimoro, e invece evidentemente non lo è. La mia bella età è stata 17 anni, quando i miei genitori si sono finalmente separati. E poi invece la mia bella età è stata quando ero fidanzato, la sera ognuno tornava alla propria casa e non si litigava mai. Mi sembra di capire che invece adesso convivete, vivete nella stessa casa e si litiga tanto. Però... obiettivamente, che cos'è un fidanzamento se non ci si sveglia insieme tutte le mattine, se non ci si vede quando si è stanchi, se non... Ok, Bonini mi dice abbiamo capito. Sarà che Bonini ancora non torna a casa la sera e non ci si ritrova tutte le sere. Di questo programma anche la colonna sonora è interessante. Qual è il brano che avete mandato alle 16:15? Guarda, facciamo uno strappo. Di solito non lo dico mai, ma non perché sia una policy, semplicemente perché me ne dimentico. Allora, comunque, per sapere quali sono i brani che mandiamo in onda, c'è sempre il riferimento di prima, ed è la pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24. Mettiamo tutti e tre i brani che mandiamo in onda. E sono linkabili, quindi se ci cliccate sopra vi apre una pagina di YouTube dove ve lo sentite e ve lo vedete. Comunque, quel brano lì è di Johnny Selfish and the Worried Man Band, e loro, nonostante il titolo, nonostante cantino in inglese, mi dice Tiziano Bonini che sono milanesi, che ci piacciono un sacco. Ma finalmente è arrivato il momento di tornare a prendere in mano Cesare Pavese. C'è una forma di libidine ogni volta che ne leggiamo un pezzo. Parla di Bella Stagione, ovviamente. È un pezzo della Luna ai Falò. Sapete che nella Luna ai Falò c'è questo tizio che è stato negli Stati Uniti, ha fatto fortuna e torna dalle sue parti, no? Dalle zone del Piemonte, insomma, le zone di Cesare Pavese, Santo Stefano Belbo e vicinanze. Lui adesso è benestante, ma incontra e diventa un po' amico di questo bambino che si chiama Cinto, che è zoppo e che in tutto e per tutto gli ricorda se stesso da bambino. E questo pezzo racconta quanto di fatto la bella stagione, spesso e volentieri, quando la vivi, non la riconosci. Poi Cinto mi disse: quest'oggi c'è la partita, e allargava gli occhi mentre lo diceva. Stavo per dirgli: e tu, non ci vai? Ma sulla porta dell'angelo comparve il Valino, suo padre, nero. Lui lo sentì, se ne accorse prima ancora di vederlo, posò il bicchiere e lo raggiunse. Sparirono insieme nel sole. Cosa avrei dato per vedere ancora il mondo con gli occhi di Cinto? Ricominciare in gaminella come lui, con quello stesso padre e magari con quella gamba. Adesso che sapevo tante cose e sapevo difendermi. Non era mica compassione che provavo per lui. Certi momenti lo invidiavo. Mi pareva di sapere anche i sogni che faceva la notte e le cose che gli passavano in mente mentre arrancava per la piazza. Non avevo camminato così, non ero zoppo io, ma quante volte avevo visto passare le carrette rumorose con su le sediate di donne e di ragazzi che andavano in festa, alla fiera, alle giostre di Castiglione, di Cossano, di Campetto, dappertutto. E io restavo con Giulia e Angiolina sotto i noccioli, sotto il fico, sul muretto del ponte, quelle lunghe sere d'estate, a guardare il cielo e le vigne sempre uguali. E poi la notte, tutta la notte, per la strada, si sentivano tornare cantando, ridendo, chiamandosi attraverso il belbo. Era in quelle sere che una luce, un falò, visti sulle colline lontane, mi facevano gridare e rotolarmi in terra perché ero povero, perché ero ragazzo, perché ero niente. Quasi godevo, se veniva un temporale, il finimondo di quelli d'estate, e gli guastava la festa. Adesso, a pensarci, rimpiangevo quei tempi. Avrei voluto ritrovarmici. my life I've been strolling, singing the same old worried song. I have my head, I've been rolling, been on the run for too long. I want to be a folk singer, moving from town to... È un appello quello che sto per fare. La prima volta che lo faccio, ma non posso fare a meno di farlo, perché c'è la povera Margherina Ita. Margherina Ita. Vabbè, dai, lo rifaccio. Perché c'è la povera Margherita Ina che sta impazzendo ed è l'autore della puntata di lunedì. Ci ha scritto il racconto, ce l'ha mandato, ci è piaciuto, ci abbiamo fatto la puntata e lui non si fa più trovare. Allora, non so come ti chiami, perché la mail è una mail strana, per cui ti faccio capire chi sei. Il tuo racconto parla di un pomeriggio dell'86 in cui sei un militare, prendi un treno e su quel treno incontri una ragazza e c'è una piccola storia d'amore che dura giusto il tempo del treno e poi lei scompare. Ti leggo anche un pezzo. In quel pomeriggio dell'86 sto attendendo il treno che mi riporta in caserma in Coppa o Friuli. Lei invece è insieme ad una signora che potrebbe essere la nonna. Il fato ha già organizzato tutto. Viaggeremo insieme sullo stesso treno. Mandaci una mail, mandaci un messaggio. Voi siete qui, @radio24.it. Dobbiamo trovarti. Ti abbiamo mandato un sacco di mail e non rispondi. Margherita, guarda, è ancora al cellulare. No, al cellulare no, perché non abbiamo il numero. È ancora al computer. Fatti vivo, voi siete qui, @radio24.it. L'ultimo messaggio di oggi è quello di Marcello, classe 75, cioè la mia età, 37 anni. La mia bella età è questa qua, mi è appena nato il settimo figlio. In bocca al lupo, grazie a Tiziano Bonini, a Pietro La Corte, a Margherina Aita o Margherita Aina. E grazie soprattutto a Enrico, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.